Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Napolitano chiede subito riforme per la crescita, preoccupa, dice, la coesione sociale. L'annuncio di Berlusconi, domani il nome per Banca Italia. Industria, crescono ordini e fatturato, Fiat, Marchionne, confermati i target per il 2012. Sciopero, Grecia paralizzata, Moody's taglia il rating della Spagna. Una buona giornata da Anna-Rita D'Ambrosio e dalla redazione. Questi i nostri titoli. In primo piano dunque al Quirinale per la cerimonia di investitura questa mattina dei Cavalieri del Lavoro. Il Capo dello Stato è tornato a sollecitare la politica sulla crisi. In diretta da Roma, Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. Una mobilitazione straordinaria, un'assunzione di responsabilità forte e netta, perché le difficoltà sono sotto gli occhi di tutti. Torna a lanciare un accorato appello il Capo dello Stato al Governo, in primis alle forze politiche, alla società civile, alle imprese. L'Italia è più che mai esposta a eventi di crisi e dunque è necessario per Napolitano che ognuno faccia la sua parte. Due le priorità: abbattere il debito pubblico e stimolare la crescita con riforme strutturali ormai impellenti, per le quali occorre una larga condivisione politica, condivisione che però, sottolinea il Capo dello Stato, purtroppo non c'è. Preoccupato, anzi angustiato per la mancata coesione, si dice infatti napolitano, preoccupato anche per la questione giovanile. Sentiamo la sua voce. La questione della disoccupazione e della frustrazione giovanile deve essere al centro delle nostre preoccupazioni, e parlo di preoccupazioni per la coesione sociale e anche per l'equilibrio democratico e per la convivenza civile. Occorre essere lungimiranti, conclude infine il Capo dello Stato, chiedendo alle forze politiche e sociali di non farsi condizionare da calcoli elettorali, un rischio che, dice, non esiste solo in Italia ma anche in altri paesi europei. E da Roma è tutto. Grazie Alessandra. E sul fronte economico ci sono da segnalare due interventi importanti sui due nodi da sciogliere, ovvero Banca Italia e il decreto sviluppo. Oggi hanno parlato Berlusconi e Tremonti. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Banca Italia, misure per la crescita, futuro della legislatura. Torna sui principali temi di attualità il Presidente del Consiglio Berlusconi. Quanto al successore di Draghi, destinato, lo ricordiamo, dal 1 novembre alla guida della BCE, il Premier ha annunciato che domani partirà la lettera all'Istituto di Via Nazionale con l'indicazione del nome del futuro governatore. Ascoltiamo allora il Premier. Sì, credo che io inizierò la pratica, penso domani. E quindi poi ci sarà la risposta, poi ci saranno le cose da fare che sono prescritte dalla legge. Non potete dire nulla sui candidati perché devo mandare via la lettera e quindi sono tenuto al segreto. Nome che resta avvolto dunque nel mistero, ma la corsa per la guida di Palazzo Koch dovrebbe essere attesa: Comanni, Grilli, Bini, Smaghi. Il capitolo sviluppo, quindi, spero di poter annunciare qualcosa in settimana, comunque quanto prima fa sapere Berlusconi un cambio di rotta, questo dopo la frenata ieri del Cavaliere con il suo annuncio non ci sono i soldi per il decreto. Parole arrivate contestualmente alla nuova sollecitazione del mondo produttivo che è tornato a chiedere di fare presto sul fronte del rilancio della crescita. Argomento di cui ha parlato anche la presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia. Ora servono risposte concrete, ha detto il leader degli industriali, che ha quindi difeso la sua associazione dicendo: noi abbiamo innovato. Sulla crisi è intervenuto questa mattina quindi il ministro Tremonti. Non abbiamo potuto fare stimoli all'economia, ha detto, perché non avevamo soldi per farlo, dovendo contenere il debito pubblico. Una felix culpa questa è per l'Italia, ha detto Tremonti, perché dove sono stati fatti non sono serviti a nulla. Infine, dalla maggioranza di governo, l'appello dei cosiddetti malpancisti, Urso, Ronchi, Scalia, che dicono no ad un decreto sviluppo a costo zero. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo. L'industria italiana riparte, sale il fatturato nel mese di agosto e insieme aumentano gli ordini, più 5% su base mensile, più 10,5% su base annua, con una crescita nei primi 8 mesi del 12%. Lo ha comunicato l'Istat, spiegando però che agosto è un mese molto fragile dal punto di vista del livello dell'indice, perché le imprese chiudono e vanno in ferie, quindi basta chiudere qualche giorno in meno e l'indice sale. Dunque, per vedere se il dato di agosto è segno di qualcos'altro, bisognerà aspettare, dicono i tecnici dell'istituto, il dato di settembre. E sotto i riflettori c'è anche Fiat. I target del gruppo per il 2012 sono confermati, ha detto oggi l'amministratore Marchionne. Sentiamolo. Prima di tutto non vedo Fiat senza Chrysler, perché non la conosco. Quella Fiat senza Chrysler, è inutile che mi chieda di dividermi in due, non lo faccio. E quindi non so che il futuro è buono, per il gruppo buono, e non credo che dovremmo spostare i numeri per il 2012, ma li stiamo analizzando adesso. La cosa importante è quello che faremo per il 2011, saremo in linea con le aspettative. Ci spostiamo in Grecia noi adesso, paralizzata sotto il peso delle proteste di diverse categorie di lavoratori. 48 ore di sciopero, ne parliamo e lo ringraziamo. È qui accanto a me con Vittorio D'Arolda del Sole 24 Ore. Vittorio, allora, ancora una paralisi. Sì, ancora una paralisi. La Grecia ormai è abituata a questi continui scioperi. Le manifestazioni di oggi si svolgono proprio nell'ambito di uno sciopero generale di 48 ore, proclamato per oggi e domani dai due principali sindacati del paese. Quindi sono fermi sia i privati che i pubblici dipendenti. Le misure dovranno essere approvate giovedì in vista del vertice europeo di domenica a Bruxelles e prevedono la riduzione di 30.000 posti di lavoro nel settore degli impiegati statali entro la fine di quest'anno. Poi c'è anche il blocco, la fine dell'obbligatorietà dei contratti collettivi di lavoro e l'imposizione di una tassa sulla casa. Dalle pagine di Le Monde oggi addirittura l'ex presidente della Commissione europea, Jacques Delors, è molto critico sulla ricetta dell'FMI per la Grecia e dice: insegniamo ai paesi in difficoltà a morire guariti. In 3 anni infatti la Grecia ha perso il 10% del suo PIL, ma la Merkel, il cancelliere tedesco, vuole la linea dura e quindi ha chiesto che in cambio dei prestiti ulteriori di 109 miliardi ci siano le riforme strutturali e addirittura ha proposto una troika permanente, cioè una commissione che resti a vigilare costantemente sulla Grecia e sulla sua, appunto, riforme, sulle sue riforme strutturali. In questa confusione la Grecia affonda e rischia di trascinare anche i rating AAA di Eurolandia. Grazie, ed è quello proprio che sta accadendo, perché Moody's ha colpito anche la Spagna, il giudizio sulla solidità del paese è stato abbassato ad A1. In Europa si cammina sulle uova, non si fa in tempo a fronteggiare una grana che ne scoppia subito un'altra. Nella notte è stata la volta della Spagna, declassata anche da Moody's, che però, a differenza delle altre due, ha usato la mano più pesante, tagliando di 2 livelli il rating su Madrid. Non convincono i tagli, non convincono le manovre e soprattutto non convince il livello di indebitamento delle banche iberiche. E se la crisi in Europa dovesse peggiorare, la Spagna potrebbe pagare pegno con un'altra bocciatura. Moody's ne ha anche per la Francia, sotto osservazione l'Outlook, sempre più a rischio la AAA. Nel vecchio continente tira una brutta aria e l'ennesima riprova è il ritorno sui 380 punti del differenziale tra titoli italiani e tedeschi. Spagna e Italia vanno salvate, non ci sono alternative. Per questo si continua a ragionare sul fondo salva stati. Indiscrezioni di stampa danno per certo un accordo Merkel-Sarkozy sul rafforzamento del fondo fino a 2.000 miliardi, ridimensionato a 1.000 secondo il ministro delle finanze tedesco. Il come resta complicato. Il fondo potrebbe assicurare il rischio sui titoli di Stato più deboli, coprendo tra il 20 e il 30% di perdite. Ma la cancelliera vuole anche una modifica dei trattati per controllare più da vicino i bilanci degli Stati più a rischio. Un passo indietro sulle sovranità, a vantaggio della stabilità dell'Unione. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto del vertice europeo che si svolgerà nel fine settimana ha parlato questa mattina Barroso. Ha detto che è un momento cruciale che può essere decisivo per l'euro e il futuro dell'Europa. Dunque ha detto che ci saranno risposte globali e determinanti durante questo vertice. Ieri invece dalla Germania erano arrivate delle visioni completamente opposte. Intanto sul fronte delle borse, l'ipotesi di un'intesa tra Francia e Germania fa segnare il segno più. Tutti gli indici sono positivi in questo momento, FTSE MIB più 1,65%, ma lo ripetiamo anche in Francia più 1,20, a Francoforte più 1,46, insomma indici positivi. E le banche restano sotto osservazione sulle piazze finanziarie, su quella nostra soprattutto Unicredit, a cui ieri sono stati sequestrati 245 milioni, sono 17 gli indagati, tra cui l'ex numero uno Profumo. Sentiamo che cosa è successo. L'una voleva raccogliere fondi a un tasso inferiore a quello di mercato, l'altra voleva investire risorse a un tasso superiore. Il risultato? Una maxi frode fiscale contestata a Unicredit per un'operazione con l'inglese Barclays. È di 245 milioni di euro il sequestro preventivo, cioè finalizzato ad un'eventuale confisca, disposto dal giudice Luigi Varanelli, che avalla le ricostruzioni del PM Alfredo Robledo, secondo cui emerge con evidenza, si legge, che l'operazione fu posta in essere esclusivamente per conseguire vantaggio tributario in debito. Si chiama Brontos l'operazione finita sotto inchiesta e racconta, secondo la procura, di un complesso congegno secondo cui Unicredit avrebbe finto di investire in un contratto di pronti controtermine deducibile al 95%, mentre invece per l'accusa a Piazza Cordusio aveva già concordato con gli inglesi un investimento in un deposito interbancario sui cui interessi avrebbe dovuto pagare le tasse al 100%. All'epoca, tra 2007 e 2008, i sospetti intorno a questa operazione arrivarono anche alla Camera con un'interrogazione di Antonio Borghesi dell'Italia dei Valori. Una vista di analisi finanziaria internazionale mi ha fatto appunto questa segnalazione, che su un sito inglese era riportato per intero il contratto tra Unicredit e Barclays attraverso questa operazione in Lussemburgo. Unicredit ribadisce la correttezza propria e dei propri manager, a cominciare dall'allora amministratore delegato Alessandro Profumo, ora indagato. La banca confida nel tribunale del riesame a cui ricorrerà e a cui guardano anche altri istituti che usarono prodotti analoghi. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Le 13 e 16 minuti, di cosa abbiamo parlato nella prima parte del nostro GR? Napolitano chiede subito riforme per la crescita, preoccupa, dice, la coesione sociale. L'annuncio di Berlusconi, domani il nome per Banca Italia. Industria, crescono ordini e fatturato, Fiat, Marchionne, confermati target per il 2012. La Turchia risponde alle incursioni dei ribelli curdi bombardando le basi in Iraq. Ancora una buona giornata da Anna Rita D'Ambrosi e dalla redazione. Questi dunque i nostri titoli. Tra poco parleremo della situazione in Turchia, ma subito apriamo con le nuove intercettazioni che sono state pubblicate in esclusiva sul sito di Repubblica e che riguardano ancora Walter Lavitola e i ministri italiani. Elisabetta Fiorito. Sì, nuove rivelazioni di Repubblica sui rapporti tra il ministro degli esteri Franco Frattini e Walter Lavitola, che smentiscono in parte quanto detto dal titolare della Farnesina. Frattini dice infatti di non aver mai agevolato incontri per Lavitola, ma nell'intercettazione si sente Lavitola che telefona alla segretaria del ministro Nadia per avere un incontro con il ministro degli esteri albanesi. E questo è fissato per il 21 ottobre 2009 alla Farnesina. Lavitola viene fermato su come deve fare, farsi trovare nell'anticamera della stanza dove Frattini riceve gli altri ministri, come se fosse una cosa casuale, dice la segretaria, mentre Lavitola preferirebbe un incontro nella stanza del ministro. C'è anche un servizio della TV albanese che fa vedere l'ex direttore dell'Avanti in compagnia di Frattini e del ministro Ilir Meta. Altra questione è una cosa importantissima che riguarderebbe il presidente, dice Lavitola, ma non viene fatto il nome di Berlusconi né si sa se lui. Lavitola non rivela nemmeno cosa, dice rischia di essere affannato, ma se ci mette le mani Franco si risolve. E per il momento qui da Roma è tutto, vi studio. Grazie Elisabetta. E ad agitare la maggioranza non ci sono solo le intercettazioni, ci sono forti tensioni anche nella Lega. Tensioni provocate ieri sera dalle dichiarazioni rilasciate proprio a Radio 24 alla Zanzara da Flavio Tosi sui parlamentari romani. Bossi ha reagito, ma non è solo questa polemica, perché una nuova polemica arriva proprio da Varese, dove il neo segretario voluto da Bossi, Maurilio Canton, ha chiuso per lavori la sede provinciale filo maroniana del partito. Una normale chiusura per lavori di ristrutturazione. Così Maurilio Canton, neo segretario provinciale della Lega Nord a Varese, ha giustificato lo sbarramento dei locali di Via Magenta. La sede è quella dove trovano posto le riunioni dei giovani padani, ma da tempo è diventata fortino della frangia leghista che avversa le scelte di Bossi, la stessa in cui 10 giorni fa è comparso uno striscione contro la nomina di Canton imposta dal Senatur, gesto che è un po' il simbolo della frattura interna al movimento padano. E anche se c'è chi avanza il sospetto di una ritorsione contro i leghisti ribelli, con tanto di fabbro venuto nottetempo a cambiare la serratura, Attilio Fontana, sindaco di Varese, è cauto. È un segreto di pulizia. Pulcinella, nel senso che se così non fosse e se fra una settimana i giovani padani non saranno rientrati nella loro sede, allora è evidente che il segretario ha raccontato una bugia. Io sono sempre dell'opinione del voler vedere le cose in buona fede e quindi, dato che il segretario provinciale mi ha dato l'assoluta garanzia che non è in corso alcun tipo di epurazione, io al mio segretario provinciale credo. Barbara D'Amico, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Gli scontri di Roma, le indagini vanno avanti, sono in programma oggi gli interrogatori di convalida per i 12 arrestati. Lorenza Capocitti, madre di una delle ragazze in carcere. Quello che mi ha potuto dire mia figlia, io non ho influito sulle domande perché ho visto mia figlia molto giù, dimagrita, non mangia, che io posso dire? E basta. Ma aveva partecipato ad altre manifestazioni? Sì, sì, ma normalmente non gli è mai successo niente perché lei va con la cosa della è pacifica. Ma politicamente? No, lei non ha nessun partito. E vanno avanti anche le polemiche per l'inasprimento delle misure proposto da Maroni, per quello stop al corteo Fiom, corteo che Marchionne oggi ha definito un non senso, veramente una cattiva idea. Da domani potrà manifestare solo Berlusconi e chi ha soldi a sufficienza, la reazione invece del segretario generale della Fiom Landini, commentando sempre i provvedimenti allo studio del Ministero dell'Interno. E intanto dall'estero arriva la notizia che Naomi Wolf, tra le più note autrici e attiviste del post-femminismo statunitense, è stata fermata e ammanettata dalla polizia newyorkese durante una manifestazione del movimento Occupy Wall Street nella serata di ieri a New York. Questo lo riferisce l'edizione online del Guardian. E noi restiamo all'estero, ma per andare in Turchia, dove è stata dura la reazione turca agli attacchi del PKK, uccisi almeno 15 militanti in territorio iracheno. Il presidente Gül l'aveva annunciato. Lo Stato lotterà con grande determinazione contro il terrorismo. Chi ha causato i lutti nella provincia sudorientale di Hakkari ne soffrirà. E poco dopo, o quasi contemporaneamente a queste parole, commandos turchi sono entrati in Iraq da due punti per dare la caccia ai terroristi curdi del PKK che avevano provocato la morte di 26 militari con attacchi simultanei a edifici di esercito e polizia nel distretto di Kukuk e nel centro della città di Hakkari. Secondo le agenzie di stampa turche, l'operazione via terra e via aria coinvolge tra i 600 e i 1000 militari turchi e avrebbe portato all'uccisione di 15 militanti del PKK. Negli ultimi mesi si sono notevolmente intensificate le azioni del PKK in Turchia. Il movimento rivendica la creazione di uno Stato sovrano del Kurdistan che comprende i territori curdi dell'Iraq, della Siria, dell'Iran e della Turchia stessa. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci spostiamo a Bruxelles. La Commissione europea ha dato il via libera alla proposta di regolamento che indica i progetti prioritari nel quadro delle grandi reti transeuropee per il periodo 2014-2020. Sentiamo allora quali sono le priorità da Antonio Pollio Salimbeni dell'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore, Radio Core. È stato confermato che il ponte sullo stretto di Messina non fa parte dei progetti prioritari europei, resta un affare dell'Italia soltanto. L'assoluta novità riguarda il sud. Alla fine si è trovata una composizione degli interessi. Non si dovrà scegliere fra la costa tirrenica e la costa adriatica per la direttrice verso Malta. Il tratto dal nord al sud avrà una biforcazione a Napoli, verso la Sicilia e verso Bari. Quindi non ci sarà nessuna guerra di territori. L'Unione Europea dovrebbe finanziare la linea ferroviaria Napoli-Bari e Napoli-Reggio Calabria e inoltre in Sicilia la Messina-Palermo. Ci sono altre conferme. Tra le opere prioritarie troviamo le tratte del corridoio adriatico e poi Udine, Trieste, Venezia e Ravenna avranno degli aiuti per la loro interconnessione. Prioritaria resta la Torino-Lione e sarà potenziata la tratta Milano-Venezia-Trieste e priorità è stata anche assegnata al corridoio del nord Rotterdam-Genova. La nostra rubrica adesso Paese sommerso. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. 8.688 segnalazioni, un'evasione corrispondente di 1.295.000 euro. E tutto questo in una manciata di mesi. Il dato arriva dal sito internet tassa.li, nato a marzo per iniziativa di alcuni privati cittadini. Assieme al sito evasori.info si trova facilmente in rete e fa parte della nuova frontiera digitale per fronteggiare l'evasione fiscale. Hanno come obiettivo quello di tenere il conto dell'evasione italiana, a partire dalle segnalazioni degli utenti stessi, che ogni giorno mettono mano al portafogli per comprare un caffè, pagare il dentista, ritirare i vestiti in tintoria e la macchina dal carrozziere. Entrambi raccolgono migliaia di segnalazioni provenienti da tutta Italia in tempo reale, con tanto di luogo e importo evaso. Le segnalazioni sono del tutto anonime, ma servono a dare la misura del fenomeno in atto e degli euro che non entrano nelle casse dello Stato. Di sicuro, come dice il direttore dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera, in Italia la cultura del pagamento delle imposte è recentissima e tutto può servire a diffondere questa buona prassi, anche i siti internet. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Lo sport e il calcio, la serata di Champions ieri è stata positiva per Inter e Napoli, stasera tocca al Milan. Balbettanti in campionato, Inter e Napoli rifioriscono in Europa. Una vittoria e un pareggio che avvicinano nerazzurri e partenopei agli ottavi di finale. A Zarate, quando Moratti lo ingaggiò quest'estate, gli venne promesso un bonus per ogni assist vincente. L'argentino deve averci pensato su. E allora ecco l'ispiratore della stoccata di Pazzini, che dopo 20 minuti infila l'1-0 decisivo sul campo del Lille, campione di Francia. In un San Paolo tutto esaurito, il Napoli strappa l'1-1 al Bayern Monaco. Tedeschi in vantaggio dopo appena due minuti con cross, ma gli azzurri non mollano e al 40esimo è Maggio, con un cross raso terra, a provocare l'autogol di Bastuber. Nella ripresa Ben Kerensa fischia un rigore per un veniale tocco di braccio di Cannavaro, ma De Sanctis ipnotizza Gomez dal dischetto. E stasera tocca al Milan, che a San Siro coi bielorussi del Bate Borisov potrebbe mettere in cassaforte già un bel pezzo di qualificazione. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Da venerdì saranno esposte per la prima volta in Italia alcune creazioni del grande artista Daniel Buren nelle scuderie di Villa Panza a Varese, Bene del Fai. Foto Souvenir Carré è il titolo della mostra, in cui saranno esposti una serie di foulard di seta in edizione limitata creati per la casa di moda francese Hermès. La mostra è in programma fino al 28 dicembre. Anna Bernardini, direttrice di Villa e Collezione Panza a Varese, al microfono di Adriana Fracchia. Nelle scuderie di Villa Panza si potranno vedere questi foto Souvenir Carré di Daniel Buren, quindi dei bellissimi carré che ha disegnato e che ha realizzato per Hermès, ma sarà anche visitabile nell'occasione questa meravigliosa installazione che lui ha fatto per Giuseppe Panza nel 1968. Quindi l'aspetto, diciamo così, importante è che questo artista, che si è misurato, diciamo così, anche con un'azione, voglio dire, che va al di là esclusivamente dell'atto pittorico, ma come dire, con degli oggetti, con dei manufatti che hanno un valore diverso, è un grande artista che era già stato collezionato da Giuseppe Panza e per cui lui ha fatto questo site specific che è ancora visitabile al secondo piano della villa. E i carri sono questi meravigliosi foulard in seta stampati a uno a uno, sono in totale 365 che Hermès ha prodotto e naturalmente a Villa Panza ne saranno presenti 24, con immagini e fotografie che lui ha fatto di tutti i suoi viaggi. Ed è tutto per questa edizione, grazie regia a Paolo Corleoni, vi lasciamo in compagnia di Italia in Controluce, il GR torna alle 14. GR 24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.